24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, 7:20 minuti, siamo in diretta su Radio 24, ci trovate nella vostra pagina Facebook 24 mattino, li trovate anche su Twitter se volete, @AlinoMilan, sono lì. Così come @24mattino è invece l'account di Twitter della trasmissione. Allora, oggi avremo... Ah, saluto Peter Bescapè, è tornato, eh? Un po' impaurito, secondo me. Che è successo ieri sera? Boh. Tutto a posto? Sì, sì, sì, tutto a posto. Allora, Matteo Salvini sarà nostro ospite della Lega per parlare di quello che sta succedendo. Lega ladrona, titola qualche giornale. E poi il caso dei due Marò, i due militari italiani in India, ne parleremo alle 8:30. Allora l'Italia sta facendo una figura barbina oppure sono le vie della diplomazia che richiedono tempo? Questo ne parleremo, di questo parleremo alle 8:30. Prima, come al solito, iniziamo dalla lettura dei quotidiani in edicola. Mercoledì 7 marzo. Uno sguardo ai titoli, il Sole, il rischio Grecia affonda le borse, così il Sole 24 Ore appunto sui timori dei mercati. E poi la vicenda della Lega con le accuse di aver intascato tangenti da parte del presidente del Consiglio regionale Lombardo Boni, è certo il titolo di molti giornali. Per il Corriere della Sera lo scandalo che scuote la Lega, per Repubblica Lombardia le tangenti della Lega. Il Messaggero, tangenti per la Lega. Il Giornale, Lega ladrona. Il Fatto Quotidiano, Padania ladrona. Vedete, insomma, declinato in vari modi, ma i titoli sono questi. Il Quotidiano Nazionale, ora basta, e c'è la foto di Umberto Bossi. L'Unità invece mette capolinea Formigoni, e ci sono Boni e Formigoni in foto. Il Secolo XIX, tangenti, un milione alla Lega. La Stampa invece, scuola 10.000 assunzioni, poi il governo fa dietro fronte, una vicenda che vedremo molto interessante. Libero invece continua la campagna Italia coi Marò. E Napolitano? Si chiede il Quotidiano di Belpietro. Il Manifesto, no Fiom, no Tav, no Party, è la vicenda della manifestazione della Fiom alla quale vengono invitati i Valsusini e dunque il Partito Democratico dice noi non verremo. Mentre Avvenire intervista il Ministro della Salute Balduzzi, un argine all'azzardo, torna sul tema, vieteremo la pubblicità sul gioco legale, il Ministro della Salute. Da cosa voglio partire però? Da un bel reportage che vi segnalo di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo sul Corriere della Sera in prima pagina. L'Aquila 3 anni dopo, tutto uguale. È un reportage corredato da foto dei due giornalisti che sono andati all'Aquila a vedere quella che viene definita l'agonia dopo il sisma. Soldi spesi finora? Chi lo sa? Basta la risposta del ministro delegato al problema, Fabrizio Barca, a dare il quadro agghiacciante di come è messa l'Aquila quasi 3 anni dopo il terremoto del 2009. Nel rimpallo di responsabilità ed emergenze, dopo gli squilli di tromba iniziali, si è perso il conto, un numero solo è fisso, lo zero. Quartieri storici restaurati, zero. Palazzetti antichi restaurati, zero. Chiese restaurate, zero. Peggio, prima che fossero rimosse le macerie, zero, è stata rimossa l'Aquila dalla coscienza stessa dell'Italia. Ancora lì tutto fermo, le gonne appese alle grucce degli armadi spalancati nelle case sventrate, i libri caduti da scaffali in bilico sul vuoto, le canottiere stese ad asciugare sui fili rimasti miracolosamente tesi, decine e decine di ordinanze, delibere, disposizioni, puntualizzazioni, rettifiche, precisazioni che ammucchiate l'una sull'altra hanno fatto un groviglio più insensato e abnorme di certe spropositate impalcature di tubi innocenti e snodi e raccordi che a volte, più che un'opera di messa in sicurezza, sembrano l'opera cervellotica di un artista d'avanguardia. Ti avventuri per le strade immaginandoti un frastuono di martelli pneumatici, ruspe, betoniere, bracci di gru che sollevano cataste e carriole che schizzano febbrili su e giù. E invece zero o quasi zero, tutto bloccato, paralizzato, morto, come un anno fa, come 2 anni fa, come 3 anni fa, come quando la protesta del popolo delle carriole venne asfissiata tra commi, virgole e codicilli. Inizia così dunque questo lungo reportage, lo trovate a pagina 26 e 27, dal titolo Cantieri fermi, sprechi, l'agonia dopo il sisma. Poi scrivono Stelle Rizzo, ironie della sorte, per non dire delle chiacchiere intorno invece a una struttura nuova di zecca, tirata su mentre tanti altri edifici d'arte sono ancora in macerie, il San Donato Golf Hotel a Santi di Preturo, pochi chilometri dal capoluogo, 60 ettari di parco, una valletta verde, 4 stelle, conference center, centro benessere, inaugurato a ottobre con la benedizione di Gianni Letta, qui è soprannominato l'hotel di Cicchetti. Vale a dire Antonio Cicchetti, ex direttore amministrativo della Cattolica di Milano, uomo con aderenze vaticane, stimatissimo dal governatore Chiodi, da Gianni Letta, nonché vice commissario alla costruzione. Ma il resort, scrivono ancora Stelle Rizzo, è qualcosa di più di un albergo di famiglia. Nella società che lo gestisce, la Rio Forcella S.P.A., troviamo parenti, medici di grido, uomini d'affari, molti costruttori. Il presidente dell'Associazione Imprese Edili Romane Eugenio Batelli, Erasmo Cinque, la famiglia Barese De Gennaro, la Cicolani Calcestruzzi, tra i fornitori di materiali per il post terremoto, una serie di imprenditori locali. Insomma, un reportage che vi segnalo da leggere sull'Aquila quasi 3 anni dopo. Lo trovate sul Corriere della Sera. Come vi voglio segnalare, notizie dalla casta, ha parlato Franca Rame. Franca Rame fa una denuncia al Fatto Quotidiano. Franca Rame è un'ex senatrice, e quindi in qualità di ex senatrice, Franca Rame, cari ex colleghi senatori, basta con la questua. Ah, svela una lettera sulla quale domani voglio assolutamente fare qualcosa, perché l'associazione ex senatori ha scritto una lettera a tutti i propri membri, dunque anche a Franca Rame, che però ha deciso di denunciare pubblicamente questa cosa, con questa lettera al Fatto Quotidiano che trovate a pagina 6. Cari ex senatori, in quanto ex senatrice ho ricevuto una circolare inviatami dalla vostra associazione che mi ha lasciato basita. Voi parlate di una insidiosa, perché insidiosa? Direi giusta, campagna mediatica sui costi impropri della politica a proposito delle vostre condizioni di parlamentari cessati dal mandato, di presunti privilegi. Avete un gran senso dell'umorismo a definire i vostri privilegi presunti e inesistenti. Agli occhi di tutti gli italiani, i vostri privilegi sono reali, non presunti. Esistono, e come? A botte di vitalizi da 3.000, 5.000, 7.000 euro mensili. Sono vitalizi, appunto, quindi, a vita. State ragionando con la testa o con un'altra parte del corpo lontana dal cervello? La vostra lettera si chiude con una questua da accattoni, cioè con la richiesta ai soci, socia a me, ma soci sarete voi, scrive Franca Rame, di un contributo di 15 euro mensili. Cioè, avete capito, cari ascoltatori, gli ex parlamentari chiedono 15 euro mensili ai propri soci, a tutti gli ex parlamentari, perché c'è un attacco insensato ai loro privilegi, questo scrivo io. Seguono le firme, finisce Franca Rame, degli ex onorevole senatori Antonello Falomi, 4 legislature, se non erro 9.000 euro al mese di vitalizio, Gerardo Bianco, 7 legislature, invecchiato lì e non oso immaginare il vitalizio al mese, Maurizio Eufemi, 2 legislature, credo 5.000 euro, e Renzo Patria, una sola legislatura, appena 3.000 euro, poveretto. Che cos'è, uno scherzo? Scrive e finisce la sua lettera Franca Rame. Temo proprio di no. E se non è uno scherzo, io mi ci fionderò domani, perché voglio qui l'associazione degli ex parlamentari, il cui presidente è appunto Jerry White, Gerardo Bianco, che ha chiesto 15 euro ai propri soci per sostenerle. Posso dare quest'ultima notizia flash dal mondo della casta, pagina 18 di Libero. Succede a Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, gli incarichi politici, scrive Libero, passano da padre in figlio. Questo è quanto suggerisce la vicenda che ha interessato Giuseppe Caputo del PDL, eletto in consiglio regionale, e siccome era assessore, il sindaco di Rossano Calabro, che cosa ha fatto? Avendo perso un assessore, è andato in consiglio regionale, lo ha sostituito con il figlio di Caputo, che è dovuto andare in consiglio regionale. Sostituito l'assessore, ha nominato al suo posto il primogenito dell'ex assessore, affidandogli pure le deleghe di vice sindaco e assessore alle attività produttive e agli affari generali. Quando si dice bisogna avere fiducia nei propri collaboratori. Allora, alle 7:35 minuti, molti giornali aprono sul terremoto che coinvolge un esponente di punta della Lega nella regione Lombardia, Davide Boni, presidente del Consiglio regionale e uno dei 5 membri dell'ufficio di presidenza della regione. È stato spesso anche nostro ospite. E oggi tutti i giornali titolano su ironizzando, usando diciamo, ad esempio lo schema e lo slogan Roma ladrona. Molti oggi scrivono Lega ladrona, le mazzette della Lega. Ho visto la Lega è verde di mazzette, il colore dei soldi. C'è per esempio Giannelli, la vignetta di prima pagina del Corriere della Sera. Ci sono ritratti Bossi, il figlio Trota, Maroni e Calderoli. Bossi guarda una banconota in controluce e Maroni dietro. Sono falsi? No, sembrano Boni. Questa la vignetta molto dura, cioè come dire, la Lega prende mazzette, bufera sulla Lega in Lombardia, il titolo a pagina 17 del Sole 24 Ore con Angelo Mincuzzi. La vicenda è della Procura di Milano che indaga, più di €1 milioni di tangenti sarebbero finite alla Lega Nord. Si abbatte come uno tsunami sul partito della Roma ladrona l'inchiesta della Procura di Milano. Le mazzette, secondo l'accusa, venivano ricevute tutte in contanti nel cuore del potere lombardo, il palazzo del Pirellone, le distribuivano ad altri esponenti leghisti per finanziare iniziative del partito. A pagare le tangenti sarebbero stati alcuni imprenditori, tra i quali l'immobiliarista Luigi Zunino, ex numero uno di Risanamento, e Francesco Monastero, per ottenere autorizzazione a costruzione di edifici commerciali e oliarne le pratiche burocratiche. Indagato anche il capo della segreteria Ghezzi, nell'elenco anche l'ex consigliere provinciale del Carroccio Marco Paoletti, l'ex sindaco di centrodestra di Cassano d'Adda Edoardo Sala, l'architetto Michele Ugliola e suo cognato Gilberto Leuci. Tra l'altro sarebbe proprio questo architetto Ugliola, già in passato finito in Mani Pulite, che avrebbe dato la testimonianza chiave. A pagina 3 di Repubblica, Emilio Randaccio, i verbali, la testimonianza del pentito chiave, Ugliola per l'appunto, gli ha dato €300.000 nel suo ufficio alla regione, soldi che venivano dai costruttori Zunino e Monastero. C'è da dire che Davide Boni via Facebook, sui social network, dice nega tutto, dice che dimostrerà la propria innocenza. Comunque, Michele Ugliola, già passato per un arresto per tangenti nel 13 ottobre 98 per una mazzetta al comune di Bresso in provincia di Milano, ora è nuovamente nel ciclone. Tra gli indagati, questo uomo di San Severo di Foggia dice sono da tempo un uomo di riferimento della Lega. Due gli episodi incriminati, appunto. Ugliola avrebbe consegnato a Ghezzi, capo segreteria di Davide Boni, €300.000. 100.000 sarebbero arrivati dall'immobiliarista Zunino, soldi prelevati dai suoi uffici in via Bagutta. E poi il secondo episodio, la licenza per la costruzione di un centro commerciale mastodontico nel comune pavese di Albuzzano. Vabbè, sta di fatto che ci sono le polemiche. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, pagina 2 del Corriere della Sera, tengono anche il conto. E in regione Lombardia ormai ancora un piccolo sforzo, scrivono Ferrarella e Guastella, e la regione Lombardia ce la può fare a pareggiare quanto a numero di consiglieri nei guai con la giustizia al pallottoliere della Calabria, 16 indagati, che pareva difficilmente eguagliabile. Ieri la procura di Milano appunto ha indagato con l'accusa di corruzione il presidente del consiglio regionale, e dunque siamo a 4 membri dell'ufficio di presidenza su 5 con problemi giudiziari, insieme a penati, l'ex assessore Nicoli Cristiani, arrestato a Brescia, l'ex PDL Ponzoni, penati invece del PD, e Nicoli Cristiani del PDL, e Ponzoni invece in carcere a Monza, e poi ancora, se ci si mette, gli ex assessori Guido Bombarda, arrestato, Pier Gianni Prosperini, arrestato, processi per Nicole Minetti, il compagno di partito Rinaldin, l'assessore leghista allo sport Monica Rizzi, l'altro leghista Daniele Belotti, l'arresto del patteggiamento per riciclaggio sul re delle bonifiche ambientali Giuseppe Grossi, della moglie dell'ex assessore Giancarlo Abelli. Insomma, è una vicenda che proietta la regione Lombardia con il più alto numero di indagati, tanto che molti ora dicono basta, bisogna andare a votare. Anche La Stampa, a pagina 3, Record di arresti, accusati, vecchi vizi della politica scuotono il nuovo Pirellone. Sono 17 su 80 i consiglieri lombardi coinvolti nelle inchieste. C'è, tra l'altro, tutti fanno notare la vicenda di Carlo Spreafico del Partito Democratico, l'unico dei 5 membri dell'ufficio di presidenza della regione Lombardia che non è indagato. E ovviamente non lo so se Scaramantico farà qualcosa, sta di fatto che lui dice: beh, adesso non dipingiamo l'ufficio di presidenza di Lombardia come se fosse Alcatraz. Siamo in 5, è vero, 4 indagati con problemi giudiziari, io no, ma le vicende processuali sono personali. C'è la notizia anche sulla Padania, eh? La Padania la trovate in piccolo a pagina 6, piccola, indagato il presidente del Consiglio Lombardo Boni, ribadisco la mia totale estraneità ai fatti. Comunque ne parleremo con Matteo Salvini alle 8:20. La notizia invece economica è più interessanti le trovate sul Sole 24 Ore riguardo alle borse in caduta. Pesa il rischio della Grecia, sempre lì appesa al filo Atene degli aiuti internazionali, e Luca Davi racconta tutti i dettagli a pagina 3 del Sole 24 Ore di quella che è una giornata di borsa davvero difficile. Anche Tokyo mi risulta che poco fa, insomma, ha chiuso a meno 0,64. E questa non la trovate sui giornali, ma ve la do ovviamente in presa diretta. La notizia che però ha più incuriosito me, come anche tutti i giornali, che proviene dal decreto semplificazioni che è in discussione, decreto legge sulle semplificazioni in discussione alla Camera, è questo. Ieri avevano pensato di fare questa cosa: bisogna assumere con un emendamento 10.000 nuove persone nel mondo della scuola. Qualcosa che evidentemente era meritorio, dava posti di lavoro, non lo so se dal punto di vista tecnico sia necessario come numeri eccetera, sta di fatto che questo si voleva fare. Come si pensava di trovare le risorse? Uso il passato perché poi la proposta è naufragata nel giro di 24 ore. Ci vogliono risorse per finanziare l'emendamento che porta a 10.000 nuovi posti di lavoro? Aumentiamo le tasse sull'alcol. Il caso delle assunzioni fantasma, così Scuola, a pagina 6 del Corriere della Sera, al secondo stop nel giro di poco più di un mese, le commissioni affari costituzionali e attività produttive hanno approvato un emendamento del PD che prevedeva questo: costo dell'operazione per assumere 10.000 insegnanti, 350 milioni di euro l'anno. Come li troviamo? Ritocchiamo le imposte sui giochi e sull'alcol. In serata però è arrivato lo stop della Commissione Bilancio con il sottosegretario al Tesoro Polillo, che dice il parere è contrario perché il timore che di fronte a una spesa sicura, una volta assunti gli insegnanti vanno pagati ogni mese, mentre le entrate aggiuntive dell'aumento delle imposte dei giochi e dell'alcol sarebbero incerte. In sostanza la misura rischierebbe di creare un deficit. Su questo molti giornali ci tornano: non basta il vino a far assumere i precari della scuola, pagina 6 della Stampa. Contra l'altro i produttori di vino che sono in rivolta, Roberto Fiori ne racconta le storie, i produttori inquieti, misure sbagliate, così si deprimono i consumi, non è così che si recuperano i soldi per lo Stato, dice per esempio Lamberto Vallarino Gancia, presidente di Federvini ma anche erede della famiglia Gancia. Lo ripetiamo da anni, ogni volta che si toccano le accise il calo dei consumi è superiore ai benefici ottenuti dalle maggiori entrate fiscali. Oppure Ernesto Abbona della cantina storica Marchesi di Barolo: Monti deve distinguere la farina dalla crusca perché non tutte le bevande alcoliche sono uguali. Il vino è il risultato della fermentazione dell'uva, non un alcol che proviene da chissà quale distillazione, cioè vuol dire legame con la tutela e la terra, l'opposto della delocalizzazione. Insomma, i produttori di vino sono inquieti per queste nuove tasse, ma sta di fatto che proprio a me è un po' inquietato, effettivamente anche il giornale la pone così: ecco la nuova ondata di tasse, lo Stato fa il pieno con la birra. E c'è Nicola Porro che firma un editoriale di prima pagina dal titolo «Supplizi fiscali, tassano la birra per non ridurre la spesa pubblica». La pone così Nicola Porro, è uno spunto di riflessione che vi offro. Quando una piccola impresa vede ridursi il proprio reddito, si arrangia, riduce le spese, si sbatte in tutti i modi per lavorare di più. La più grande impresa del paese, cioè lo Stato, invece, che impiega 3,6 milioni di dipendenti a ricavi per 771 miliardi di euro l'anno, cioè le nostre tasse, ragiona diversamente, fa una legge e per decreto aumenta i ricavi, cioè le nostre tasse. Se la vita economica fosse così facile, avremmo risolto i problemi del mondo. Stiamo banalizzando, ma va là, sentite questa. Ieri in Parlamento hanno deciso di stabilizzare 10.000 dipendenti della pubblica istruzione. Poi in serata sono tornati indietro e hanno bocciato la norma. Niente assunzioni. Sventata la follia, ma non il principio che la stava ispirando. Bisogna trovare il denaro per stabilizzare 10.000 professori? Come? Beh, cercando forse nelle pieghe dei ministeri, riducendo gli sprechi, combattendo l'assenteismo, ma figurarsi, basta toccare una piccola tassa sugli alcolici e la birra. L'equazione è presto fatta, più istruzione, meno alcol, e tutti a brindare alla nuova e progressiva norma. Tutte balle, scrive Nicola Porro, ma ben confezionate. E le primarie del PD a Palermo, ieri l'intervista di Rita Borsellino, oggi viene ripresa da tutti i giornali, qui fatta ai nostri microfoni, ieri alle 8.30, nonostante Rita Borsellino abbia riconosciuto la sconfitta e la vittoria di Ferrandelli, ora c'è chi invece vuole andare fino in fondo. Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo, fa un'intervista oggi alla stampa a Federico Geremicca e dice: bisogna annullare il voto. Ma e lo stesso Geremicca gli fa presente, scusi, ma Rita Borsellino, proprio qui a Radio 24 peraltro, ha detto: ho riconosciuto la vittoria di Ferrandelli, non è così, poi si è corretta, dice Leoluca Orlando. Non mi pare, dice Geremicca, e infatti non pare neanche a me, se glielo dico io che si è corretta. Ha detto che si devono esprimere i garanti del partito, per la verità questo l'ha detto anche ai nostri microfoni. In ogni caso, dice Orlando, ci sono segnalazioni alla Digos, ai Carabinieri, è successo qualcosa che non va bene, uomini di Raffaele Lombardo e del PDL davanti ai seggi, persone che distribuivano soldi, il filmato di Striscia la Notizia. Insomma, Leoluca Orlando dice: vanno rifatte le primarie vinte per 150 e rotti voti da Fabrizio Ferrandelli su Rita Borsellino, vanno rifatte le primarie di Palermo. Comunque si esprimerà il partito. Mentre una notizia che è solo sul Fatto Quotidiano, la danno Marco Lillo e Antonio Massari a pagina 7, sono indagati dalla Procura di Roma per le telefonate intercettate dalla Guardia di Finanza di Bari nel dicembre 2009, il sindaco di Roma Gianni Alemanno e l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Berlusconi Gianni Letta, quindi Alemanno e Gianni Letta, insieme a chi? Ad Augusto Minzolini, ex direttore del TG1. L'inchiesta si profila delicata per la Procura di Roma, svela i retrosceni di rapporti tra politica e informazione. Il sindaco di Roma avrebbe telefonato al direttore Minzolini per impedire la messa in onda di un servizio sulla prostituzione, mentre Gianni Letta avrebbe raccomandato un giornalista al direttore del TG1. Beh, questo verrebbe da dire: in Italia che reato è? Scusate il commento molto... ha raccomandato qualcuno alla RAI. Boh, vabbè. I Marò italiani, i nostri militari sono in India, tra l'altro quattro giornalisti l'hanno anche incontrati. Ora l'Italia alza i toni, è stato convocato a Roma l'ambasciatore d'India. Oddio, alzare i toni, qualcuno dice che è proprio stata la posizione abbastanza supina dell'Italia, molto morbida finora a creare questa situazione. Il sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura, che è lì in India, si è anche frapposto fisicamente quando i due militari stavano per essere messi nelle celle comuni nel carcere di Trivandrum, ma ha preteso invece una sistemazione a parte e che ora hanno in una palazzina all'interno dello stesso carcere. Staffan de Mistura, dicevo, fa un'intervista all'Unità a Umberto De Giovannangeli. Non molleremo mai, mai, mai, dice Staffan de Mistura, non lasceremo soli i nostri militari, ma certe cose hanno bisogno di tempo. Dice poi che pesano le imminenti elezioni regionali, che contano moltissimo in Kerala, e sono il 17-18 marzo, e quindi non prima, ipotizza anche delle date sui tempi, non prima del 23-24 marzo, quando si sapranno come sono andate le elezioni, la situazione potrebbe non sbloccarsi. Libero e Il Giornale continuano nella loro campagna, raccolta firme, oggi Il Giornale, no, Libero tira in ballo il capo dello Stato, noi stiamo con i Marò e Napolitano, facendo sottolineare e sottolineando l'imbarazzo, stato silenzio secondo Libero di Napolitano. Comunque ne parleremo alle 8.30, pare che scenda in campo su questo anche Berlusconi. Berlusconi Redivivo oggi andrà porta a porta, registrerà questa mattina e poi volerà dal suo caro amico da sempre Vladimir Putin, neoeletto per la terza volta al Cremlino. Silvio scende in campo e chiede aiuto a Putin. Berlusconi vola in Russia e scrive Libero con Salvatore Dama, sempre molto ben informato nella cerchia di giornalisti vicino a Berlusconi, pronto a utilizzare la diplomazia dell'amicizia con Putin per salvare i nostri Marò in India. Vi segnalo per chiudere un'interessante intervista, pagina 3 di Avvenire, del ministro alla salute Balduzzi, che torna sul tema vietare la pubblicità del gioco. Presto la ludopatia sarà una malattia, sulla pubblicità volteremo pagina, ce ne siamo occupati sul gioco legale settimana scorsa, ve lo segnalo. Come vi segnalo che il fisco batte 5 milioni di richiesta per il cantante Tiziano Ferro, ne scrive a pagina 14 Libero. Sarebbe andato a Londra evitando di pagare le tasse in Italia per 5 milioni di euro. Fuga da Equitalia per Tiziano Ferro. C'è 20 secondi per concludere. A Londra ieri è successo qualcosa, peraltro. Il Milan si è trionfalmente qualificato con una strepitosa partita per i quarti di finale. Ragazzi, che strizza questo titolo, Milan che strizza, titolo la Gazzetta dello Sport, e questo mi riferivo che ieri Peter Bescapè avrà passato una serata un po' così, no? Conta il risultato? Ma visto il primo tempo di Londra, se dovessimo incontrare, che ne so, il Barcellona, ci presentiamo anche col pallottoliere, ma un tempo non fa primavera e quindi siamo passati, siamo nei quarti. 24 mattino. Siamo qui alle 8.22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, come anticipato in rassegna stampa, vogliamo parlare intanto della vicenda della Lega. Il presidente del Consiglio regionale leghista della Lombardia, Davide Boni, indagato, accusato di aver preso delle tangenti. Saluto Matteo Salvini, eurodeputato della Lega, anche consigliere a Milano. Buongiorno Salvini. Buongiorno a lei e soprattutto a chi ci ascolta. Allora, senta, Roma ladrona e ora Lega ladrona, qualche giornale titola, Lega tangenti, che effetto fa? So che lei all'estero, a Londra, non avrà visto forse i giornali, ma questi sono i titoli, non teneri, eh? Ma guardi, c'è un'indagine, quindi rispettiamo l'indagine, conoscendo le persone coinvolte, conto che sapranno dimostrare l'infondatezza delle accuse. Detto questo, chi sbaglia sbaglia a titolo personale, non a nome e per conto del partito. Chi è membro della Lega, soprattutto per rispetto delle migliaia e migliaia di militanti, dei segretari di sezione, degli elettori, deve essere al di sopra di ogni sospetto. Però, ripeto, forse nei giornali, prima di dare del ladro a qualcuno, aspetterei una prova o una condanna, non sì. Un'accusa. Perché se qualcuno domani mattina accusa Matteo Salvini o Alessandro Milan di essere dei ladri, deve provare che sono dei ladri. Vabbè, chiaro, sono le, diciamo, si fa così, sempre è stato fatto così anche con Penati, cioè non di dare dei ladri, ma di dire le accuse sono di essere dei ladri. Attenzione, in Regione Lombardia purtroppo, e nessuno mai festeggia, sono state arrestate diverse persone, diversi esponenti politici. Chiaro che se uno viene arrestato e gli si trovano 100.000 euro sotto il materasso, qualche fondatezza, evidentemente qualche dubbio concreto. Cioè, qua la mia idea è che ci siano delle indagini su persone che conosco e che mi stupirebbe avessero fatto o pensato qualcosa di simile. Detto questo, come Lega speriamo che le indagini vengano fatte in frettissima, perché non vogliamo avere scheletri nell'armadio di nessun tipo. Ripeto, soprattutto per rispetto dei nostri militanti e dei nostri elettori, che i contributi li danno volontariamente con fatica. Però dice, se avesse sbagliato, comunque gli errori sono personali, anche se l'accusa è dire aver preso soldi per il partito. Infatti qualcuno dice, fosse così, sarebbe un altro Pirla come Patelli? No. se uno dei 3.500 vigili urbani, uomini della polizia locale di Milano, sbaglia, come probabilmente è accaduto qualche settimana fa, sbaglia lui. Non è che il corpo dei vigili urbani di Milano sia un corpo di maledetti. Quindi, però non è diverso se sempre stando alle accuse, se uno prende i soldi per sé o per il partito? No. Uno nel 2012 e nel 2011 e nel 1950 i soldi non li prende abusivamente, punto. Non esiste che ci siano traffici, anche perché, ripeto, la Lega, a differenza di tanti altri, ha la fortuna di avere migliaia e migliaia di persone che volontariamente danno tutti i mesi il proprio contributo, quindi certe cose in una sezione della Lega non si fanno e non si pensano, ed è per questo che non voglio neanche per un secondo credere alla fondatezza delle accuse. E non essendo un complottista, nel senso che non sono uno di quelli che vede dietro tutto gli americani, il Mossad, un complotto, sì. Sicuramente, mettiamola così, il fatto che la Lega sia unica opposizione dentro fuori il palazzo a qualcuno dà molto fastidio e qualcuno le tempera tutte pur di distruggere questa unica opposizione dentro e fuori. Io questa però, Salvini, devo dire, l'ho capita poco, perché effettivamente lei dice: io non sono un complottaro, però abbiamo sentito il capogruppo Dozzo dire abbiamo presentato la norma sulla responsabilità civile dei giudici e trac, arriva questa cosa, facciamo notare la tempistica. Lei adesso dice siamo l'unica forza d'opposizione, notiamo solo questo. Manca il passo successivo, sembra un complotto messa così. No, vai. Se ci sono delle prove che vengano tirate fuori non domani ma stamattina, e di quello parliamo, io non faccio il magistrato rispetto al lavoro dei giudici, e quindi che facciano bene, liberamente, serenamente il loro mestiere, conoscendo, ripeto, a differenza di tanti ascoltatori che dicono ma chissà chi saranno questi tipi, li conosco e faccio militanze, ci ho attaccato manifesti per 20 anni. E sarei davvero molto stupito che fosse fondato anche un decimo delle accuse loro mosse. Detto questo, non esiste che siano accuse mosse a un intero partito che solo in Lombardia ha 613 sezioni, per fare un esempio, con 613 segretari che gratuitamente, volontariamente tirano su la sala cinesca della loro sede in Valtrompio o a Mantova, quindi non possono essere coinvolti in nulla di simile. Detto questo, che dall'ultimo mese, quando appunto grazie alla Lega è stato approvato quel passaggio che chiede ai magistrati, se sbagliano, coscientemente di pagare personalmente, sì, ci sono partite non una ma 5 indagini su 5 esponenti. Diciamo un dato di fatto, andate. Però lei non fa uno più uno. Se ci sono delle colpe, sono personali e vanno punite, punto. Secondo me, conoscendo le persone in questione, dalla Lombardia al Piemonte alla Romagna, colpe non ce ne sono. Detto questo, se qualcuno magari si è offeso e la fa pagare in questa maniera qua, sarebbe preoccupante. Senta, si deve dimettere Boni, perché Penati lo ha fatto, Nicoli Cristiani lo ha fatto, cioè quelli dell'ufficio di presidenza, 4 su 5 coinvolti a vario titolo, si sono dimessi, almeno per difendersi bene, dovrebbe fare un passo indietro. Penati è ancora consigliere regionale, mentre stiamo parlando di questo momento. Nicoli Cristiani si è dimesso perché l'hanno arrestato. Se mi arrestano perché trovano i soldi sotto il materasso, e lì c'è qualcosa di più che non un'accusa. Dipende dal singolo. Guardi, anch'io ho scoperto di essere stato citato recentemente in un libro che parla dell'andrangheta a Milano, in quanto avrei incontrato non meglio precisati emissari che non ho mai avuto il piacere o il dispiacere di conoscere. Secondo me uno si deve dimettere se c'è una prova tangibile che ti dia del ladro, del delinquente, del colluso. L'indagine non mi è sufficiente. L'indagine non è sufficiente. Non per uno si può chiamare Penati, Pinco, Pallino, Brambino, Boni. Un'ultima cosa riguarda, non mi dica adesso che Bossi parla così. Insomma, quella frase che poi ha rettificato, Monti rischia la pelle, il Nord lo farà fuori. Insomma, stiamo un po' esagerando forse. Guardi, le parlo non oxfordianamente, visto che sono a Londra, per 24 ore per vedermi il Milan, e ieri sera al terzo gol dell'Arsenal eravamo molto c'è andata di culo, vabbè, ma andiamo l'abbiamo sbagliata, l'abbiamo portata a casa. Ma io l'ho voluta interpretare, non c'ero a Piacenza all'incontro dei boss, quindi non mi permetto di... Vabbè, però l'ha detto, c'è l'audio, ma l'abbiamo mandato anche noi. Se mi chiede l'interpretazione, visto che l'avevamo sentito anche qualche giorno prima nella sede della Lega a Milano, senza giornalisti, senza pubblico, chiacchierando alla macchinetta del caffè, si parlava di legge elettorale, e lui disse la stessa cosa: lo faremo fuori politicamente. Quindi lui aggiunse politicamente, io voglio interpretare il fatto che il Nord lo farà fuori, essendo il Nord popolato da gente educata e civile politicamente in cabina elettorale. Ah, perché ha detto anche rischia la vita, proprio ha detto. No, rischia la vita politica, stavamo parlando di questo. Mancava quell'aggettivo, no, dico, pubblicamente gli è mancato quell'aggettivo, ma voleva dire quello. No, c'è il dubbio che qualche esponente pseudotecnico di questo governo sostanzialmente abusivo voglia continuare con la mucchiata di destra e sinistra, PD, PDL e l'esperienza politica. Dal nostro punto di vista è un governo pericolosissimo, perché sta massacrando su casa, lavoro, impresa e pensioni come mai in precedenza. Dobbiamo essere attenti, visto che ci sono dai Notav agli anarco-insurrezionalisti, teste calde ce ne sono in giro, non sono fortunatamente nelle sezioni della Lega, dobbiamo essere molto attenti a quello che diciamo, questo sicuramente. Sì. Va bene, grazie Matteo Salvini, l'abbiamo sfangata, grazie, effettivamente questa è l'unica notizia positiva anche per lei ieri a Londra, e grazie, ci sentiamo presto, noi dobbiamo fermarci pubblicità e meteo e poi parliamo del caso dei Marò. Italiani in India detenuti illegalmente, chiaramente illegalmente. Guardate, questo non è in discussione. Il fatto è avvenuto, di cui parleremo, in acque internazionali. Quindi che siano detenuti in India non c'entra è successa o no questa cosa. Il fatto in sé che siano detenuti in India, lo ripeteremo mille volte, è una cosa che viola tutte le norme del diritto internazionale, che possiamo o rispettare oppure bruciamo i codici del diritto internazionale, e va bene, siamo tutti d'accordo. Sta di fatto che però l'accusa è: l'Italia è troppo morbida, l'Italia si è mossa male, tardi e con troppa diplomazia, e ora c'è un pasticciaccio brutto da gestire. I due militari italiani in India, che ne pensate? 800 24 00 24 per il vostro intervento. Siamo un paese troppo morbido, stiamo facendo una brutta figura, oppure ci stiamo muovendo nell'arte della diplomazia? 24 mattino. Allora, alle 8:36 minuti vogliamo parlare della vicenda dei due militari italiani, due Marò, che sono in carcere ora in India, nello stato del Kerala in India. L'accusa nei loro confronti dal 15 febbraio è di avere sparato e di avere ucciso due pescatori indiani. Loro erano a bordo di una petroliera, come prevedono le leggi internazionali, in campo della lotta alla pirateria. Al di là della vicenda in sé, cioè, c'è una vicenda abbastanza clamorosa, il fatto che siano in carcere dopo un episodio avvenuto in acque internazionali. Comunque la domanda che vogliamo porre anche ai nostri ascoltatori 800 24 00 24 è: cosa pensate di questa vicenda, se l'Italia si sia mossa tempestivamente con forza diplomatica, oppure se si sia mossa, come sono le accuse che ora si leggono anche sui giornali, in maniera troppo blanda, creando ora un pasticcio di questi due militari che sono in carcere, sebbene non con i detenuti comuni. Ne parliamo con due parlamentari. Il senatore Alfredo Mantica, buongiorno. Buongiorno a voi. È stato sottosegretario agli esteri all'ultimo governo Berlusconi. L'onorevole Sandro Gozi, del Partito Democratico, buongiorno. Onorevole. Buongiorno. Mantica invece del PDL. Gozi, tra l'altro, è presidente dell'associazione Italia-India, anche lui si occupa spesso di esteri. Intanto, senatore Mantica, le chiedo, siamo stati troppo morbidi in campo diplomatico? Cioè, ci siamo procurati questa situazione intervenendo in maniera sbagliata? Ma guardi, io credo che sia giusto e doveroso tentare di rispondere a questa domanda, però in questo momento io metterei in primo piano la questione di come farli rientrare in Italia, nel senso che poi sarà giusto accertare sia le carenze della legge, che indubbiamente esistono, quella che autorizza i militari a bordo delle navi, sia come si è sviluppata questa catena di comando, perché certamente l'aver consegnato i due soldati alla giustizia normale indiana non è certamente un'operazione brillante. Ecco, infatti, su questo infatti la mia prima domanda, in realtà prima di quella che l'ho fatta, è questa. Io la metto così, capisco che lei deve usare anche i termini della diplomazia, lei è sempre stato un diplomatico, ma voglio dire, chi diavolo li ha consegnati questi militari? Cioè l'armatore, la Farnesina che ha ordinato, sì sì, mandateli pure a collaborare a terra. Ripeto, io non credo che questo sia il momento, come dire, di fare questa specie di processo, che è una che dovrà essere fatto, però oggi noi dobbiamo tutti insieme tentare di creare una forte pressione di opinione pubblica, quindi partendo dai partiti, dal Parlamento, dalla stampa, perché la prima cosa importante io credo sia in questo momento dimostrare che tutta l'Italia e il popolo italiano avvertono questo vulnus dei suoi soldati che sono, come dire, in carcere per aver compiuto il loro dovere, nel senso che erano come funzionari dello Stato, secondo le leggi dello Stato, in acque internazionali a svolgere un compito internazionale, quello della lotta alla pirateria. Ripeto, questa è la prima cosa. La seconda, credo che occorra spingere il governo a farsi carico in prima linea e con più forza di questo problema, che forse è anche stato, come dire, un po' sottovalutato da tutti, insomma, sostanzialmente. E credo sia necessaria una grande operazione diplomatica a livello internazionale, bisogna avere l'appoggio forte di tutti i 27 paesi membri dell'Unione Europea. Noi eravamo a svolgere una funzione in un'ottica su cui anche l'Unione Europea ha posto una priorità, quello della lotta alla pirateria. E poi ovviamente quei paesi che sono nostri alleati e nostri amici, penso agli Stati Uniti, e che hanno ottimi rapporti con l'India. Su questo devo dire che, un errore è stato anche quello di dimenticare che l'India, pur appartenendo, come dire, in senso lato allo schieramento occidentale, però in materia di politica estera ha sempre condotto un'azione molto, molto indiana, lo vediamo dall'Afghanistan al problema dei rapporti col Pakistan, il Bangladesh, i rapporti con la Cina, è sempre stata, come dire, con una sua politica internazionale a difesa degli interessi nazionali, non sempre allineata con le posizioni dell'Occidente. No, poi bisogna dire che è tutto avvenuto anche nello stato del Kerala, che è uno stato dell'India che ora va alle elezioni, e questo incide. Però su questo vorrei coinvolgere anche l'onorevole Sandro Gozzi. Certo, non aiuta, lei, Mantica, ha chiamato in causa l'Unione Europea, non aiuta forse il cosiddetto ministro degli esteri europeo Ashton, che ha detto è un problema di fatto meramente ed esclusivamente italiano. Ma onorevole Gozzi, lei, e quando ci siamo sentiti anche ieri con la nostra redazione, è stato più sulla linea morbida, cioè attenzione, lei che conosce anche come appunto vengono le situazioni in India, attenzione a non volere forzare la mano. Si può capire tutto, il patriottismo, il fatto che ci sono stati degli errori, però se si forza la mano, magari con le campagne stile quella di Libero del Giornale, si rischia solo a questo punto di ritardare la consegna dei nostri militari. Però che dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo calare le braghe, mi scusi il termine. Ma guardi, è così, è evidente, è naturale, direi, non solo giusto, ma proprio naturale, che tutti siamo preoccupatissimi per i nostri due marò che erano lì a fare il loro dovere su indicazione del governo e adesso per errori nella catena di comando che dovranno assolutamente essere risolti in Parlamento, perché già nel 2010 noi avevamo detto che quel sistema non avrebbe funzionato, ma adesso non è il momento di battere di questo, ne parleremo nelle commissioni estere e difese in Parlamento, però adesso l'obiettivo è riportare a casa i marò. Riportare a casa i marò tenendo sangue freddo e facendo prova di unità nazionale. Se noi cediamo a quella che secondo me è una vera e propria provocazione, un atto ostile, cioè quello di chiedere che vadano in carcere, anche se non è un carcere come quello per gli indiani, sappiamo benissimo, abbiamo letto tutti i giornali, due nostri militari che facevano una missione internazionale in base al diritto internazionale con le loro divise, è certamente una provocazione. Alle provocazioni però non si risponde con altrettante provocazioni, perché non serve. Se servisse, benissimo, provochiamo gli indiani, andiamo a fare manifestazioni davanti all'ambasciata dell'India, però questo non serve. Non serve perché in una struttura molto complicata come quello dello Stato indiano, in cui diciamo il Kerala è pienamente autonomo, è uno Stato federale l'India, il Kerala è pienamente autonomo dal punto di vista giudiziario su questa vicenda e che si trova in un dibattito politico, perché ci sono delle elezioni locali molto importanti proprio in questi giorni e che finiranno il 17, e guarda caso l'alta corte si è riservata di decidere addirittura proprio sulla giurisdizione, cioè sul fatto di stabilire se veramente gli indiani possono giudicare i nostri militari oppure, come noi siamo sicuri, no, perché il diritto internazionale dice che dovremmo giudicarli noi. Guarda caso questa decisione avrà, è stata rimandata di 15 giorni, quindi noi siamo a metà marzo. Io credo che andare in uno scontro, che poi tra l'altro è uno scontro di dichiarazioni, perché purtroppo il coltello dalla parte del manico in questo momento ce l'hanno gli indiani, e ce l'hanno gli indiani, non ci serve. Quindi non se... ci ho detto, occorre assolutamente alzare la pressione. Credo che dopo quello che è successo, cioè l'incarcerazione, chiamiamola come l'ha chiamata, anche se più dolce rispetto agli italiani, occorre aumentare la pressione, e il governo ha fatto bene a aumentare la pressione e a porre la questione innanzitutto a livello di Unione Europea. La risposta della Ashton è deludente, ma è la Ashton che è deludente, non è che noi possiamo pensare che uno 500 però la Ashton in questo momento una 500 diventa lo so Ferrari. Però la Ashton in questo momento in quel momento rappresentava la Ashton in questa Europa farà quello che i governi le diranno di fare. Ed è per questo che noi come Italia dobbiamo innanzitutto europeizzare la questione, e in realtà anche internazionalizzarla. Perché se noi facciamo passare il principio che per degli errori che sono tutti da verificare e delle responsabilità presunte, tutto da verificare, i militari che fanno missioni internazionali nel quadro europeo, perché c'è un'azione funzionale in acque e in acque internazionali, vengono prese dal primo paese, il problema è che però sono stati anche consegnati. Comunque, dopo le informazioni sul traffico, giustamente molti ci pongono due problemi. Il primo è: ma scusate, ci spiegate un po' la dinamica dell'incidente, è controversa, ma cercheremo di ricostruire qualcosa. E poi è stato fatto un accostamento in questi giorni, improprio, perché le vicende sono totalmente diverse, sulla vicenda del Cermis, ma per dire da parte di molti: ma come, lì dei militari americani in un territorio italiano hanno compiuto un reato evidente, uccidendo chiaramente delle persone, e sappiamo come è andata a finire, e noi invece cosa facciamo? Consegniamo i nostri militari all'India. In questo caso è sempre sull'idea della debolezza o presunta debolezza di un paese. Allora, alle 8:47 minuti, intanto per riepilogare quello che è la vicenda, il 15 febbraio due pescatori indiani rimangono uccisi e l'India accusa, perché sono stati sparati dei colpi dalla petroliera su cui c'erano a bordo appunto i nostri due marò. È vero, il petroliera dice: noi abbiamo sparato dei colpi in mare, non li abbiamo colpiti, era una difesa contro il rischio pirateria. C'è un'altra nave, una nave greca, dalla quale invece sarebbero partiti dei colpi. Insomma, è una vicenda controversa, non si sa chi abbia sparato questi colpi, si sa che noi abbiamo consegnato i nostri militari, i greci non lo hanno fatto. Però, senatore Mantica, ripeto, è inopportuno e improprio il paragone, due vicende diverse, ma la vicenda del Cermis è per dire: là gli americani hanno detto col cavolo che vi facciamo processare i militari in Italia, qui addirittura una vicenda controversa in acque internazionali li abbiamo dati. Allora uno deve trarre due pesi e due misure sul peso e sulla forza di un paese in ambito internazionale? No, certamente c'è un problema di peso, c'è un problema anche di cultura. Voglio dire, ricordo che gli Stati Uniti non accettano nessuna corte penale internazionale sui propri uomini, e se vogliamo fare un paragone che credo spieghi meglio la situazione, quando le truppe americane hanno lasciato l'Iraq, l'idea era quella di lasciare 2.000 o 3.000 uomini per la formazione dei militari iracheni. Gli americani hanno chiesto al governo iracheno che ci fosse la garanzia che questi uomini lasciati sul territorio iracheno sarebbero stati, come dire, immuni da ogni tipo di sanzione per quello che avrebbero potuto fare in Iraq. Il Parlamento iracheno ha negato questa immunità, gli americani non hanno lasciato nemmeno un soldato in Iraq. Cioè, voglio dire, c'è un'impostazione di base profondamente. Cioè, vedete, viene fatto a nostre condizioni, se no noi ce ne andiamo. Noi non abbiamo questo tipo di atteggiamento, né non l'abbiamo mai usato, anzi da noi c'è un grande dibattito che dura ogni volta che rinnoviamo le missioni italiane all'estero sul codice penale, il codice civile, il codice militare, eccetera. Che problema, tra l'altro, che noi non abbiamo mai risolto né con tutti i governi che abbiamo avuto, né in centrodestra, in centrosinistra, e che non abbiamo mai, come dire, evidenziato. Quindi c'è una carenza, se mi consenti, di carattere culturale. C'è poi un'altra questione che noi non usiamo, e faccio un altro paragone: la Danimarca, che non mi pare un paese guerrafondaio noto nel mondo per posizioni militariste, sul caso dei pirati, ha recentemente fatto settimana scorsa un attacco a una nave pirata per liberare 18 ostaggi, ne sono morti 2, ne sono stati liberati 16. Quando noi, torno al caso della Kylin, quindi torno a un anno fa, avevamo una nave nostra che operava in zone che era pronta all'attacco, noi decidemmo tutti assieme, voglio dire governo Berlusconi, ma Parlamento e anche opinione pubblica e anche familiari di coloro che erano a bordo, che qualunque attacco militare che poteva mettere a rischio una sola persona non poteva essere fatto. E questo è un altro tipo di l'impostazione, l'impostazione culturale, sì. Mi lasci sentire dalla situazione. Mi lasci sentire un ascoltatore, Aldo dalla Spezia, che ci ha chiamato all'800240024. Aldo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, volevo precisare semplicemente che c'è stata una superficialità, non so da parte di chi, nel far rientrare la nave d'acqua internazionale alle acque nazionali indiane. E questo purtroppo l'abbiamo detto. È inconcepibile assolutamente. Gli americani con noi hanno stipulato dei trattati bilaterali dove noi, governo italiano, abbiamo sempre accettato che venissero processati qualsiasi cosa, anche in caso di incidente stradale, negli Stati Uniti e non da noi. A maggior ragione mi chiedo, come mai, scusi, stavo camminando, Cammini. Come mai in un trattato internazionale che prevede che in acque internazionali la giurisdizione sia nazionale abbiamo consegnato, ricostruendo dai retroscena della stampa, ma come ha detto l'onorevole Gozzi, poi una volta che finirà, e speriamo tutto bene, questa vicenda si dovrà ricostruire, pare che la catena di comando della Marina Militare fosse contraria alla riconsegna, mentre l'armatore, quindi il proprietario della petroliera su cui c'erano i militari, sentita la Farnesina, quindi il Ministero degli Esteri, si è sentita risponde: collaboriamo con la richiesta dell'India di cercare di vedere chiaro in questa vicenda. E collaborare vuol dire hanno attraccato in porto e poi la vicenda a quel punto diventa di competenza indiana. Onorevole Gozzi, cioè che però mi traduca il dobbiamo fare pressione in maniera corretta, cioè cosa dobbiamo fare? Perché il pallino adesso è in mano all'India, possono fare quello che vogliono. Certo, c'è il nostro sottosegretario di mistura lì che dice mi frappongo anche fisicamente, però voglio dire, le leggi adesso sono indiane quelle che vigono. Beh, certamente la situazione adesso è molto più complicata. Fare pressione vuol dire spingere molto di più al di là delle questioni costituzionali interne indiane. Il governo centrale federale di Nuova Delhi a premere sulle autorità del Kerala, perché Nuova Delhi ha e deve dimostrare di avere un interesse fosse tanto grande quanto il nostro, a risolvere in maniera positiva questa questione. Quindi ci aspettiamo molte più pressioni da Nuova Delhi su Kochi, dal governo federale sulle autorità del Kerala. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, che la questione venga sollevata dall'Unione Europea rispetto all'India, perché ormai è una questione che crea un precedente pericolosissimo, lo ripeto, per tutte le missioni europee e internazionali. Quindi fare pressioni vuol dire delle iniziative ufficiali dell'Unione Europea nei confronti dell'India. Ricordo che tra l'altro noi stiamo negoziando un accordo di libero scambio con l'India a livello europeo, quindi abbiamo degli strumenti importanti per fare pressione economici affinché questa questione venga risolta. Senta, la vicenda, il nostro obiettivo è riportare i militari a casa, è chiaro. La vicenda, le chiedo, la vicenda delle gigantografie, i poster appenderli, il Comune di Milano li ha appesi, il Campidoglio li ha appesi, è una vicenda di colore oppure secondo lei significato? Non so, al Parlamento lei vedrebbe bene questa gigantografia dei due marò? Guardi, no, obiettivamente no, perché io ritengo che il nostro obiettivo non sia lavorare sull'emotività, ma il nostro obiettivo è non fare alcun passo che possa complicare la vicenda, qualsiasi cosa che possa sembrare una provocazione negli indiani, che possa dare il pretesto a qualche giudice o qualche politico del Kerala di alzare i toni, secondo me va evitato, mentre dobbiamo assolutamente continuare a mantenere quella presenza fisica del governo vicino ai militari, che è la migliore garanzia che tutto il paese è unito per riportarli a casa, perché stava facendo solo il loro. Me lo dica anche lei, senatore Mantica, in flash, lei sulla gigantografia, su questa campagna, che ne pensa? Io direi, su questo non sono assolutamente d'accordo con Gozzi. Io credo che la pressione dell'opinione pubblica italiana abbia un valore, e polemica per polemica voglio ricordare che quando noi ci siamo interessati della Kylin e dell'altra nave che era dei pirati somali, su cui c'erano a bordo marinai indiani, io non ho mai visto l'ambasciatore indiano preoccuparsi dei suoi marinai, né tantomeno mai vedere con la Farnesina. Quindi io credo che invece far capire, perché poi l'ambasciatore è uno che trasmette al suo governo anche le sensazioni del paese in cui vive, far capire che il popolo italiano nel suo complesso ne fa una questione nazionale e che quindi è c'è importante. Un movimento non contro l'India, per amor di Dio, ma di difesa del diritto di essere sulle proprie navi a difenderle dagli attacchi dei pirati, è importante. Deve essere fatto con grande forza anche da parte della stampa e dei media, senza fare gesti come si tenta di fare, capire perché o meno, però va fatto. È un problema diverso e va fatto. Beh, io mi devo fermare, ringrazio il senatore Alfredo Mantica e l'onorevole Sandro Gozzi, @AlinoMilan è il mio account Twitter, mi trovate e ci troviamo domattina alle 7:20.